Oggi è un altro appuntamento del programma di Liberfest, che è l'appuntamento con i libri a cura del Valsusa Film Fest. Oggi presentiamo il libro di Filo Sottile, senza titolo di viaggio, storie e canzoni dal margine dei generi. Quindi abbiamo l'autrice, che è molto conosciuta, la sua attività di scrittrice, di attivista, di pancastorie, di attrice, e abbiamo anche l'onore di avere con noi Roberto Huming, che non so se ha bisogno di presentazione, comunque uno dei maggiori intellettuali che abbiamo. Bene. Mi viene da dire, no, è vero, è la verità. Vivente. Vivente, ci tiene a specificare vivente, ma... una cosa di Frassica, io adesso leggerò una frase, mi dovete dire se è di uno scrittore vivo, di uno scrittore morto o di uno scrittore morente. Bene, allora sono molto, ringrazio il Valsusa Film Fest di avermi dato questa opportunità, perché è un alza libro, alza la voce, sì, devo alzare più, parlare più forte, è un mio difetto, ahimè. Questo libro è pubblicato dall'edizione Allegre sotto una collana che si chiama Quinto Tipo, di cui Roberto è direttore. Quinto Tipo, io sono un po' ignorante in entrambe le materie, sia in ufologia o in insomma, letteratura di fantascienza, e anche un po' di editorie e tipografie, però mi evoca sia un incontro ravvicinato, io ero arrivata fino al terzo, poi ho scoperto che ce ne sono fino a N incontri ravvicinati di N tipo, e sia rimanda anche proprio al tipo dell'editore, cioè quindi un quinto tipo, non so se l'editoria si usa dire primo tipo, secondo tipo, non lo so, però di sicuro è un tipo diverso dagli altri, non mi viene da dire quasi. Sì. E quindi chiederei, partirei con Roberto per capire un pochino il progetto editoriale e soprattutto come è avvenuto poi questo incontro di Quinto Tipo, che se ho ben capito dalle informazioni che ho preso, un incontro quando l'uomo incontra, c'è un passaggio di qualcosa fra l'essere umano e l'essere alieno, vorrei capire chi di voi è l'umano e chi di voi è l'alieno in questo incontro. Io aliena subito mi riconosco. Allora sì, in realtà la scala di Hynek, quella che viene usata tradizionalmente in ufologia, ha solo tre tipi, appunto. E il film di Spielberg famoso, appunto, Incontri avvicinati al terzo tipo, si era arrivati solo fino lì, poi degli esagerati hanno cominciato ad aggiungere delle sottovarianti, delle tipologie eccetera, e in realtà non c'è un gran bisogno di questa classificazione, ma a me piaceva l'immagine dell'incontro avvicinato al quinto tipo, perché in ufologia è quella situazione in cui tu hai uno scambio comunicativo continuato con un oggetto alieno. No, quindi tu trasmetti un messaggio, quello ti risponde, allora tu rispondi ancora, quello lì è un incontro ravvicinato del quinto tipo. Penso non ne siano mai avvenuti, suppongo, però insomma è una cosa ipotetica. C'è gente che è sicura di aver avuto incontri di questo tipo, ma insomma poi li bisogna vedere. Allora, nel momento di inaugurare questa collana, di cui erano già chiare le caratteristiche, insomma in che direzione volevamo andare, cercavamo un nome che rendesse l'idea appunto di questa alienità, e quindi abbiamo usato una metafora dal mondo degli oggetti volanti non identificati. Questa cosa del non identificato è importante perché la collana è dedicata a dei libri che sono dei veri e propri oggetti narrativi non identificati, sono degli UFO letterari. Perché sono quei libri inclassificabili che uno non saprebbe dire se sono saggistica o narrativa, se sono reportage o storia, se sono diario di viaggio o inchiesta storiografica, poema in prosa, cioè sono quei libri i cui autori o le cui autrici usano tutto il materiale che sentono necessario per poter svolgere il compito. Quindi al margine dei generi letterari. Assolutamente, infatti il gioco di parole del sottotitolo, genere nel senso di gender, quindi appunto i generi inteso come sono intesi nel contenuto del libro, ma anche genere nel senso di genre, cioè quindi i generi letterari, i generi narrativi, e quelli sono sfidati nel modo in cui il libro è scritto. Quindi il libro, sia nel contenuto, sia nell'espressione, potremmo dire sia nella forma, sia nella sostanza, sfida i generi. Oltrepassa degli steccati, mette in crisi delle classificazioni, lo fa sia nei confronti del gender sia nei confronti del genre. Ed è interessante che in italiano si usi la stessa parola, mentre in inglese appunto ci sono due parole diverse che derivano tutte entrambe da genus, generis latino, ma poi hanno avuto una biforcazione, sono diventati due vocaboli diversi. In italiano invece sono ancora lo stesso vocabolo con due accezioni diverse, e il sottotitolo le tiene insieme, ma tutta l'operazione del libro di filo le tiene insieme. E io non credo alla separazione di forma e sostanza, no? Penso che non ci sia una differenza tra etica ed estetica, tra forma e sostanza, tra contenuto ed espressione. Noi quando leggiamo qualcosa che ci colpisce e ci convince, non sapremmo dire se ci ha convinto il contenuto o il modo in cui è espresso, perché ci arriva come un tutt'uno. La scelta del modo di esprimere quel contenuto fa già parte del contenuto, se una cosa è scritta bene, chiaramente. Poi è vero che ci sono dei testi sciatti che vorrebbero dire, vorrei ma non posso, che vorrebbero comunicarti delle cose importanti ma non riescono a farlo, no? Perché lì c'è stata una scissione tra contenuto ed espressione. Ma quando un testo funziona, in realtà noi come lettori non sappiamo distinguere tra contenuto ed espressione. La collana gioca su quello, no? E quindi sono dei libri che sia nel contenuto sia nell'espressione sono mutanti, sono alieni, sono in perenne transizione, sono in fondo dei libri trans. Sono dei libri trans, sono in perenne transizione, che sia dalla saggistica alla narrativa, ma rimanendo, cioè la transizione è il loro stato, è la loro dinamica perenne. Non è che è una transizione da un punto all'altro, perché sono testi non binari, è anche quello interessante, no? Dobbiamo avvisare Luca Giunti di questa cosa, perché è pubblicato anche assolutamente lui, ma infatti anche il libro di Luca il libro di Luca rispetta assolutamente le linee guida non scritte della collana, perché anche quello lì che cos'è? È un saggio? È un racconto personale della propria esperienza col lupo? Sono appunti di lavoro? C'è sia la sua esperienza di naturalista, sia un tentativo proprio di scrittura più letteraria, e quindi rientra perché non è né un saggio né semplicemente una testimonianza, un racconto, un diario di lavoro di un naturalista che lavora appunto al parco dell'Orsiera Rocevre, non è neanche solo una serie di aneddoti dei propri incontri col lupo, sia come figura sia proprio il lupo materialmente. Quindi anche quello lì era per me era un oggetto narrativo non identificato. Quello di filo porta secondo me al parossismo, all'apoteosi, questa cosa qua, perché è effettivamente uno dei libri che più è andato in là nell'ibridazione. Qua dentro abbiamo veramente di tutto, abbiamo ogni sorta di genere viene esplorato. Questo quando entreremo proprio più nello specifico del libro, questa cosa la vedremo, ma direi che Filo non si è fatta mancare niente nello scrivere questo libro, c'è veramente la qualunque. Ce ne siamo accorti, ecco. Ho letto che ha trovato spunti veramente in entrambi i sensi in cui dicevi, sia nei contenuti che nella forma, in questo senso. E il vostro incontro come è avvenuto? Rispondi tu o rispondo io? No, in realtà è avvenuto prima di che esistesse Quinto Tipo, perché noi ci conosciamo e collaboriamo ormai da più di 10 anni, collaboriamo dal 2011, sì. Ci conosciamo dall'anno prima, credo, sì. Sì. Il primo libro di filo che ho letto era un romanzo salgariano, adesso ho il momento del coglione, ricordami il titolo. Non me lo ricordo neanche, non è vero, lo Spleen di Mompracem, che era particolare, era una strana variazione sui personaggi salgariani, su Yanez e così. Oltre che come appunto diciamo, scrittura anche a livello musicale c'è stato un incontro, perché le canzoni di filo Natale in Val Clarea che veniva ricordata prima, le canzoni diciamo a supporto musicale, a colonna sonora nel vivo della lotta Notav eccetera, sono poi entrate anche nel mio libro Un viaggio che non promettiamo breve. Filo ha collaborato sia al mio libro Point Lenana sia a Un viaggio che non promettiamo breve, dove compare tra proprio i personaggi. E anche se col suo, qua dobbiamo dire, col suo dead name, qua tocca dire che cos'è il dead name, no? Il nome morto nell'espressione della cultura trans è il tuo nome all'anagrafe che tu abbandoni per sceglierne uno che è più vicino a quello che senti davvero di essere, eccetera. Quindi in realtà nel libro, in Un viaggio che non promettiamo breve, Filo è ancora presente col suo dead name, insomma con quello che aveva nel certificato di nascita, e che non è quello invece per cui viene condotta una lotta in questo libro, perché in realtà questo libro riguarda in gran parte anche questa lotta per il nuovo nome. Ecco, è una cosa interessante, sì. È una cosa molto interessante del libro, è anche questo, un libro che sfida le classificazioni e al tempo stesso lotta per un nuovo nome. Ecco, che potrebbe sembrare una contraddizione, invece no, sono esattamente due fasi dello stesso movimento. Infatti, allora, ricollegandomi a quello che ha appena detto Roberto, in effetti il libro, appena iniziamo a sfogliarlo e guardiamo il sommario, ci rendiamo conto che non ha un indice, non è diviso in capitoli, è diviso in atti, questo proprio per ricollegarci a quello che veniva detto, quindi ci aspetteremo un'opera teatrale o un'opera lirica, no, per dire, rispetto alla classificazione. Quindi abbiamo un prologo, un primo atto, un secondo atto, un terzo atto e l'epilogo. Questi atti hanno dei contenuti diversi, io mi sono fatto un'idea del primo atto come più una parte più autobiografica, tu viaggi quella nel tempo andando avanti e indietro, ricostruendo i punti salienti della tua storia, e devo dire che il tuo stile autobiografico l'ho trovato super, veramente, perché... Almeno non so, la mia impressione è che tu permetti alle persone, attraverso la tua biografia, attraverso il racconto della tua biografia, di ripercorrere la propria biografia, e questo secondo me è il top del, insomma, di chi vuole fare autobiografia, ma con l'aggiunta del fatto di permettere alle persone di farlo da un punto di vista diverso. E quindi se le persone veramente si approcciano a questo libro in un certo modo, almeno a me è successo questo, puoi ripercorrere alcune tappe della tua vita e vederti da un punto di vista differente, e soprattutto vedere tu, che quasi tutti siamo fermi nel nostro genere, e invece possiamo scoprire dei margini di genere anche in noi, che magari abbiamo certezze, no? E quindi questa operazione in me è avvenuta. E ti faccio i miei complimenti, perché comunque non è, cioè, autobiografia sembra un genere facile, ma non lo è per niente, secondo me. Invece questo, fatta come ha scelto di farla lei, poi è evocativo, e soprattutto dà una possibilità a chi lo legge, che è quella di vedersi sotto un altro punto di vista, quindi questo per me è veramente bello. Allora, per iniziare a parlare del contenuto di questo libro, ti chiederei se sei d'accordo di fare una piccola cornice, e che quindi noi, un po' non se ne abbiano i presenti in sala, ma un po' per l'età, femminismo, quando sentiamo parlare di femminismo più o meno ci accordiamo su quello che stiamo dicendo, ma transfemminismo è una parola relativamente, almeno che si sente più, insomma, popolarmente, diciamo così, da pochi anni. Che cos'è transfemminismo? Che cos'è per te transfemminismo? Ok, quindi mi hai chiesto di fare una cornice del libro, sì, e di parlare di che cos'è, cioè, il transfemminismo. Giusto per l'inverto. Collocare gli argomenti, sì, in una, visto che il filo è quello. Ok, il filo torna sempre. le inverto. Il transfemminismo per me è il femminismo. Abbiamo bisogno di metterci davanti questo prefisso trans, perché negli ultimi anni c'è un fortissimo insorgere di un femminismo transfobico, di un femminismo transescludente, che è anche l'espressione spesso di un femminismo bianco, di un femminismo borghese e di un femminismo poco attento, cioè che ha una precisa connotazione di classe, ha una precisa connotazione di razza. Purtroppo io questo libro che sto per citare l'ho letto pochi giorni dopo aver consegnato le bozze di Senza Titolo di Viaggio, per cui non è citato mai, ma è stato tradotto in italiano l'autunno scorso ed è Il femminismo è per tutti, di Belux. È uscito in originale in americano nei primi anni 90. Non c'è mai la parola trans, e se non in una frase non parla mai di persone trans. Dopodiché quello è un libro trans includente, no? E in cui le tematiche, cioè l'approccio, le prassi, il modo di guardare del femminismo include davvero tutte le persone, e tutte le persone si possono sentire al di là del loro genere, al di là della loro condizione di classe, al di là anzi soprattutto le persone di una classe inferiore, di una classe più bassa, soprattutto le persone discriminate per la loro razza, per la conformazione dei loro corpi, per il loro stato di abilità o disabilità, no, si possono sentire parte di quel discorso. Allora, quello per me, no, nel momento in cui l'ho letto ho detto: cazzo, se l'avessi letto prima l'avrei citato tutto il tempo. Invece ho citato altri libri di Belux, tantissimo, ma quel libro lì è un manualetto divulgativo, saranno 150 pagine, è scritto in maniera molto brillante, si legge veloce, però, no? Oltre a tracciare una breve storia del femminismo del Novecento negli Stati Uniti, però dà tutti gli strumenti per capire che certe uscite, no, di persone che poi magari stanno con Renzi, fanno parte di quel, muovono le leve del potere e che sono donne, si dichiarano femministe, semplicemente stanno facendo un femminismo per poche. Esatto, escludente. Assolutamente. Per cui per me andrebbe benissimo dire femminismo. Abbiamo bisogno in alcuni casi di chiarire che è un femminismo transincludente, che è un femminismo che prende in considerazione le persone straniere, è un femminismo, no? Che è davvero per tutte, al di là di quello che ci abbiamo in mezzo alle gambe, al di là di quello che è il nostro orientamento sessuale, no? Al di là della nostra identità di genere. L'identità di genere ce l'hanno tutti, non ce l'hanno solo le persone trans, ed è anche le persone che parlano di sé come persone cisgender, persone che si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, possono avere delle identità di genere sfumate, no? Che escono fuori da quelli che sono i canoni riconosciuti dalla società e dalla cultura, che sono canoni variabili nel tempo, nello spazio, a seconda delle condizioni. Anche lì, no? La maniera in cui la classe sociale a cui appartiamo cambia la maniera in cui stiamo nel genere, e cambia lo cambia profondamente, no? A un certo punto tiro una pippa nel libro su questa questione, soprattutto a sinistra, in un certo tipo di sinistra ogni tanto si è sentito dire che le persone che hanno un orientamento sessuale non etero, che hanno un'identità di genere non cisgender, sono, no, persone Certo, o è una deviazione borghese o una deviazione aristocratica, però i poveri non sono mai né froci, cioè non sono froci mai. Per un certo tipo di comunisti. È profondamente falso. Il fatto è che persone che hanno uno status sociale alto di un certo tipo si possono permettere anche di dichiarare pubblicamente il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere, tanto mangiano uguale. Anzi, persone, in certi casi mangiano anche di più. Sì, forse. Le persone che appartengono a classi sociali più basse devono fare delle valutazioni, perché potrebbe diminuire, anzi sicuramente diminuisce, la loro capacità di sopravvivenza. La società diventa più dura nel momento in cui fanno pubblicamente determinate cose, dichiarano pubblicamente determinate cose, no? Per cui c'è sempre stato un sommerso, il si fa ma non si dice, tanta giustamente osannata rivolta di Stonewall del 1969 non l'hanno fatta, al contrario di quello che si vede nel film omonimo, dei maschi bianchi gay con un lavoro in banca. L'hanno fatta persone migranti, razzializzate, trans, no? Che per lo più si prostituivano, per cui quello è, no? Ed è quello che è importante, questo lo dice Monique Wittig in Non si nasce donna, che bisogna completamente uscire fuori dalla cornice essenzialista, per cui la nostra anatomia dice chi siamo socialmente, dice quale ruolo sociale ricopriamo, e dobbiamo entrare nell'ordine di idee che invece l'attribuzione di genere funziona come una classe sociale in un mondo patriarcale, per cui in un mondo disegnato, pensato per il maschio bianco adulto, cisgender, eterosessuale, normodotato, abile, così è chiaro che essere una persona donna, essere una persona trans, essere una persona non etero, no? Cambia la tua classe sociale. Questo Wittig lo fa utilizzando le categorie di Fanon, no? Recupera quel sapere e lo ritraduce nel genere, però appunto queste cose si tengono sempre insieme, no? È la lezione di Angela Davis, no? Razza, classe, genere, e sta tutto insieme. E invece brevemente sul libro, questo era il libro che non volevo scrivere. Colpa mia. Colpa sua, veramente, perché quello che io volevo fare era, sull'onda dell'urgenza, scrivere un articolo. Era un articolo un po' lungo, lo confesso, perché nasceva già come un articolo di 90.000 battute. Lì sul tavolo c'è un libricino che è uscito prima, che si chiama La mostruosi trans. Quel libricino è 70.000 battute, per cui questo era ancora più lungo e sarebbe dovuto uscire in due puntate su Giap. Anche su tre. Forse tre. sul blog della Women Foundation. E a partire da una cosa che mi era capitata, un episodio di discriminazione sul lavoro subito da me, volevo fare una serie di considerazioni politiche. Insomma, utilizzavo quell'episodio per allargare il discorso. Avevo la necessità di fare questa cosa perché era il momento, erano i primi mesi del 2021, in cui per la prima volta sulle prime pagine dei giornali si parlava di DDL Zan, si parlava di carriera alias, e a me sembrava che la maniera in cui si parlava di questo tipo di tematiche fosse un diversivo e che, no, mancasse poi quello che era il centro verde per me e per insomma le riflessioni attuali femministe e transfemministe. Quello che è la riflessione del insomma, da attivista transfemminista che faccio con i miei compagni e le mie compagne e le mie compagne, mi sembrava che mancasse il punto, no? Perché la cosa veniva venduta come niente, facciamo il DDL Zan e l'homo lesbo bitransfobia scompare. E invece la questione, no, continua a essere una questione strutturale che riguarda l'ordinamento della società e che insomma prevede un'azione olistica, complessiva, esatto, e che quel provvedimento, poi mi prendo la briga di dedicarci tipo 15 pagine e di decostruirlo, nel senso non mi metterò a fare le barricate contro il DDL Zan. La cosa che però, insomma, riprendendo quello che poi è il sentimento dei movimenti, dei collettivi transfemministi in Italia in questo momento, è molto più di Zan, cioè abbiamo bisogno di un altro tipo di approccio. Comunque, per come è scritta quella legge, secondo me è non solo poco efficace allo scopo che si prefigge, ma potenzialmente dannosa. E i provvedimenti da prendere sarebbero degli altri. Comunque, io volevo scrivere questo articolo e ho cominciato a raccontare questa storia, ho cominciato a fare tutta una serie di considerazioni su quello che è l'impianto legislativo che riguarda il percorso delle persone trans e, no, su tutta una serie di considerazioni su come stanno le persone trans all'interno di questa società. Questo era, diciamo, raccontato in 90.000 battute. Avevo chiesto a Roberto che fosse pubblicato il 14 di aprile del 2021, perché il 14 di aprile casca l'anniversario della legge 164 del 1982, che quest'anno ha compiuto 40 anni, che è la legge che si occupa, che sdisciplina, no, i percorsi di affermazione di genere delle persone trans, che è una legge che dall'82 adesso ha subito delle variazioni. È una legge, c'ha 7 articoli, non è che sia chissà che popolo di legge, però ha subito alcune variazioni, delle pezze legislative che stanno in due sentenze, una della Corte Costituzionale e una della Cassazione, che, diciamo, la rendono aggirabile in alcuni suoi aspetti più retrivi, però continua a essere quella legge lì nel suo impianto, cioè una legge punitiva, una legge che ha come fine principale quello di, fra i suoi fini principali, quello di tutelare l'istituto del matrimonio eterosessuale e quello di tutelare la certezza del genere. Ti fermo un attimo, perché a questo proposito leggiamo un pezzettino di libro. Dai. Grazie Antonietta. Oh. Dillo dopo. Alla narrazione del corpo sbagliato non ci credo. Ci ho dovuto fare i conti perché la soluzione facile che anche a me è stata proposta per dare una ragione al mio disagio. Sei nata nel corpo sbagliato, sei una donna imprigionata nel corpo di un uomo, vero? Ci ho ragionato a lungo. La risposta è no. Io sono questo corpo. La mia vita è totalmente coincidente con i mutamenti che dal mio concepimento a oggi lo hanno attraversato. Non è il mio corpo essere sbagliato. L'errore, l'orrore, è nel controllo, nell'irrigimentazione e nella eterocis patriarcale. Il peccato originale è nel binarismo e nella conseguente tendenza a canonizzare le misure, le forme, le caratteristiche, i comportamenti, gli abiti e gli accessori, e sulla base di queste canonizzazioni permettere alle persone di esistere. Sì, sono intervenuta sul mio corpo. L'ho mutato con i farmaci e non paga, combatto il mio irsutismo con il laser. Ma vivo su un pianeta in cui i corpi degli esseri viventi, dal primo incontro dei gameti fino alla disgregazione finale, sono in continuo mutamento. Non solo il crescere e l'invecchiare mutano i nostri corpi e le nostre menti, Un contributo importante lo danno le attività che svolgiamo. Quando ho cominciato a usare decespugliatore e tosassiepi, ho sviluppato una muscolatura che prima non avevo. Quando ho iniziato a potare alberi da frutto e riconoscere e distinguere le piante, si sono creati nuovi percorsi sinaptici nella mia mente. Quando ho lavorato da giardiniere, i calli da falegname si sono spostati altrove, hanno cambiato forma, consistenza e posizione. Da quando alle corde metalliche della chitarra acustica ho preferito quelle in bio nylon dell'ukulele, anche i miei polpastrelli sono diversi. Negli anni in cui ho fumato, 24, un alone giallo di nicotina ha colorato indice e medio della mia mano destra. Quando poi ho smesso, nel giro di poco è completamente scomparso. Anche le azioni, i lavori, i comportamenti, oltre al trascorrere del tempo e l'influenza del luogo, contribuiscono a mutare i corpi e di conseguenza le nostre esistenze. Gli ormoni e gli interventi non sono un trucco, un gioco di prestigio, un'illusione, un inganno o una frode. Il loro effetto è come un callo o un muscolo che si sviluppa in conseguenza di una nuova sollecitazione fisica. Ciò che appare è la maniera specifica in cui si modifica il corpo delle persone trans nel tentativo di sopravvivere alla pressione eterocis patriarcale. Né mistificazione, né capriccio estetico. I segni che il mestiere di vivere lascia sui nostri corpi. Questo è. Abbiamo scelto questo pezzo proprio anche rispetto a quello che dicevi tu, perché non ho mai riflettuto su questo punto, in effetti, che affrontiamo anche noi pensandoci, se questo pensiero ci ha mai attraversato rispetto al percorso delle persone trans, che da una parte parti da e deve arrivare per forza lì. Cioè, che sì, la dico male perché non sono avvezza magari a usare un determinato linguaggio, ti permettiamo di fare la transizione, ma tu devi arrivare dove diciamo noi, non so se ho detto giusto, e quindi devi arrivare comunque a essere identificata con una cosa che la società accetta, con uno dei due generi, quindi se sei maschio e vuoi diventare femmina, fallo alle nostre condizioni e deve arrivare a un risultato a qualsiasi costo, anche sottoporta a interventi chirurgici. Le persone trans non possono scegliere cosa fare. Ti chiederei di dire due parole su questo, o tutte le parole che vuoi. È esattamente come l'hai detta tu, nel senso, la legge 164 dice quello, dice che si danno nuovi documenti a una persona che è intervenuta sul proprio corpo, sui caratteri primari del proprio corpo. La richiesta minima, il minimo sindacale che ti viene richiesto è la rimozione delle gonadi, un'orchiettomia per chi ha un'assegnazione maschile alla nascita, cioè la rimozione dei testicoli, e una isterectomia per una persona che ha un'assegnazione femminile alla nascita, asportazione dell'utero. Quello è il minimo sindacale che ti viene richiesto, è l'implicito della legge. Dopodiché la legge è molto vaga, no? Non dice come si svolge un percorso di affermazione di genere. Nel corso degli anni sono nati dei protocolli, ce n'è quello più utilizzato in Italia. Allora, in Italia ci sono 14 centri che si occupano, 14 centri di salute pubblica che si occupano di percorsi di affermazione di genere, per cui ce n'è meno di uno per regione. La Sardegna, per esempio, ne è completamente sprovvista e sono le persone più sfigate di tutte, perché una persona che fa un percorso deve proprio prendere o un aereo o una nave per farlo, e per cui, insomma, di nuovo c'è una fortissima intersezione con la classe, chi si può permettere queste cose. Di questi 14 centri, 12 applicano un protocollo che si chiama protocollo ONIG, che recentemente è leggermente cambiato a fine 2019, ma per molti anni sostanzialmente diceva che Diceva sulla base di testi di legge, di sentenze che ci sono state precedentemente, che la persona transessuale, questa era la definizione, ha necessità di intervenire sui propri organi genitali e che questa cosa viene regolata in una maniera molto precisa. 6 mesi minimo di psicoterapia, una psicoterapia che non è un supporto a una persona che magari in un momento anche complesso della sua vita, è vero e proprio giudizio, no? Qualcuno che sta lì e giudica se sei davvero uomo, davvero donna, davvero trans, no? E ti permette di accedere allo step successivo che è la cura ormonale. Cura ormonale minimo 1 anno, e in questo stesso periodo c'è il real life test, qualcuno che controlla se te la cavi bene, no? Se sei credibile all'esterno, nel mondo reale come persona trans, come se prima invece stavi su Aldebaran, e dopodiché un giudice decide se puoi fare degli interventi di cui eventualmente senti la necessità. E se puoi cambiare il nome. Inizialmente dovevi fare prima gli interventi e solo dopo potevi cambiare il nome. Adesso dal 2015 ci sono queste due sentenze di cui parlavo prima, che permettono di aggirare questo obbligo. Sostanzialmente vai davanti al giudice a dire: vorrei tantissimo farli gli interventi, proprio mi piacerebbe un botto, però in questo momento ho trovato un mio equilibrio, per cui in questo momento non li faccio. Allora, dicendo questa balla, ti permette di avere i documenti senza rimuovere le proprie gonadi, perché non tutte le persone trans hanno questo desiderio, no? Ci sono tante esperienze trans, quante sono le persone trans? Non c'è una sola maniera di essere persone trans, esattamente come non c'è una sola maniera di essere persona cisgender, cioè tutte le persone hanno un modo diverso di stare e di pensare al proprio corpo, alla propria esistenza, alle proprie relazioni. Volevo dire ancora una cosa, ma non mi ricordo più, per cui va bene così. Dopo ti verrà in mente. No, il legame che volevo, l'avevi accennato prima, che questa legge è per la preservazione del matrimonio, come adesso, insomma, diciamo così. Per Sì, quale motivo? Perché? il matrimonio, se io fossi stata sposata con la mamma di mia figlia, per esempio, nel momento in cui ho ricevuto un nuovo, perché ce l'ho fatta, faccio questo spoiler, nel Ah, libro non c'è bene. scritto, però dei documenti al femminile, come si dice, nel momento in cui ho raggiunto questo cambio anagrafico, il mio matrimonio sarebbe stato sciolto, no? Però esattamente in quel momento, perché non esiste, lo chiariamo, un matrimonio ugualitario tra Dello stesso persone sesso, sì, dello eterosessuali e stesso persone sesso, sì. omosessuali. Quindi quella è una cosa che che è tutelata nella legge. L'altra cosa è la certezza del genere. Non ci possono essere persone che hanno un genere diverso da maschio o femmina, da uomo o donna. Per cui quella è un sottinteso pesantissimo di quella testo di legge. Ho voluto ragionare su questo perché insomma, nell'immaginario comune si pensa che la persona trans non abbia che il desiderio di magari subire degli interventi chirurgici per arrivare ad essere una persona dell'altro sesso, e invece cioè, la realtà non è questa, e quindi anche tutto quello che descrivi nel libro, secondo me, è utilissimo proprio come fonte di conoscenza di un mondo di cui sappiamo pochissimo, no? E Guarda, di cui non. ho già raccontato questo episodio qualche volta, e qualche anno fa in un circolo torinese che si chiama Circolo Moris, c'è stata un'assemblea, un incontro in cui si parlava di questioni trans e c'erano presenti, diciamo, persone trans un po' âgées della vecchia guardia e persone trans più giovani. da poco, insomma, cominciava a esserci questa possibilità di aggirare la legge e quindi avere documenti senza fare interventi demolitivi. E una persona della vecchia guardia si è alzata in piedi e ha detto: "Non è giusto, vi dovete tagliare il cazzo anche voi." Ma non fa ridere per niente. Non fa ridere per Era niente. seria, era proprio seria. Esatto, perché ci dice quanto violenta era Sì, quella assolutamente. azione di pretendere, no, per poter esistere socialmente, di intervenire sul proprio corpo e mutilarsi sostanzialmente. Quello. Di questo si tratta. La legge continua a essere quella. Adesso, no, c'è una sensibilità un pochino diversa. C'è in questo, i movimenti, anche la rete, una volta tanto gli diamo un piccolo merito, no? Il fatto che le persone trans si possano parlare, possano mettere in comunicazione, possano far circolare le informazioni. Ragazzi, ci sono persone amiche mie, amiche, amici, amico, persone trans che sanno di endocrinologia meglio di un primario, perché sanno tutto di farmaci, di cose, di dove andare a fare un determinato tipo di intervento, quali sono tutti gli effetti collaterali. Cioè, c'è un sapere costruito dal basso gigantesco. E ci sono forti gruppi, c'è una forte pressione che, no, i vari gruppi stanno facendo localmente e anche a livello nazionale sui professionisti che si occupano di queste tematiche, sulla politica, non so con quanto successo, no? Cioè, per esempio, quella che è stata venduta come una grande vittoria, i farmaci, gli ormoni gratis per le persone trans, è una cosa che non funziona, non è vera. Cioè, le persone che erano nella condizione di pagarseli, continuano a pagarseli, cioè che non hanno avuto accesso all'esenzione, continuano a pagarseli. Non è cambiato niente, anzi, si è istituito un regime di maggior controllo, e per cui in questo momento solo le persone che vanno in quei centri hanno diritto ai farmaci, solo che non tutte le persone possono andare in quei centri, perché molto spesso in quei centri il protocollo viene applicato in una maniera molto binaria, per cui se vai a dire che, per esempio, sei una persona non etero, perché le persone trans non è detto che siano eterosessuali, cioè non è detto che una donna trans desideri stare con un uomo e un uomo trans desideri stare con una donna, perché anche le persone trans sono come le persone cisgender e hanno orientamenti vari. No, se vai a raccontare cose di questo genere, come nel mio caso, io sono una persona, sono sicuramente, mi sento sicuramente una persona trans, non mi sento una donna, non ho mai detto sono una donna, sì, utilizzo pronomi femminili, ho un'espressione di genere più femminile, dopodiché sono una persona trans, fine. E andare a fare un discorso del genere in determinati centri vuol dire bocciatura, vuol dire che non ti fanno passare avanti perché sei confuso, non hai le idee chiare, no? Come se, no, ci fosse qualcuno che ha le idee più chiare di te sulla tua esistenza. È quasi sempre così. C'è qualcuno che la sa più lunga di te. Per cui mi sono persa, No, no, però penso che però era proprio lì, siamo cioè in sul perenne. fatto che ponete troppa confusione, insomma, le questioni. Assolutamente. E la domanda, cioè quello che mi chiedo è perché comunque anche da parte delle persone comuni ci sia una resistenza tale che poi se ci pensiamo una rivoluzione in questo senso andrebbe tutta a favore anche delle persone cis, no? Per dire soprattutto delle donne, mi viene da dire che si riconoscono nell'identità che è stata loro assegnata alla nascita e io per esempio Farebbe sì, bene sono una anche ai donna maschi cis ma cisgender, per per esempio rigetto molte di tutte le caratteristiche che sono associate alla mia identità e quindi cioè, sarebbe una rivoluzione ed è per questo che ovviamente... viene bloccata in tutti i modi, no? Credo. C'è uno slogan, io raramente utilizzo la parola diritti, però c'è uno slogan che in questo caso ci fa gioco, che i diritti trans sono diritti per tutti, cioè non, nel senso, l'autodeterminazione del proprio corpo e delle proprie relazioni non è una cosa che riguarda le persone trans, è una cosa che riguarda tutte le persone, perché tutte le persone hanno un corpo, tutte le persone hanno una relazione. Hanno delle relazioni e sono immerse nelle relazioni. Cioè, anche questa cosa, no, del come c'è un essenzialismo maschile, un essenzialismo femminile, si è delineato, si è disegnato, si è immaginato un essenzialismo trans, no? Per cui, oh, il mio corpo è sempre stato sbagliato. No. La questione è che nessuna persona. No? È un'isola, è isolata, tutte le persone sono nelle relazioni ed è nelle relazioni che scopriamo giorno per giorno chi siamo e come siamo, cosa ci piace, cosa non ci piace. Io non credo che si nasca trans, come non si nasce uomo, non si nasce donna. Abbiamo intorno un mondo che fin dal concepimento ci dice... Si racconta, si descrive, i nostri familiari, le persone che ci stanno vicine, la scuola, tutto ci racconta che cos'è il mondo in maniera contraddittoria, e chi più chi meno, cioè, ha possibilità di scegliere in quale narrazione stare, no? Ovviamente meno narrazioni senti e meno possibilità hai, cioè tutta la battaglia... Più bisogna intrupparsi, insomma. Sì, io faccio questo coming out problematico, sono iscritta al canale Telegram di Provita, per cui so tutto di quello che dicono sti stronzi. Io sono quelli di qua, no? Esatto. Bisogna far così, bisogna far così. No. Il numero di telefono, ci si scrive col numero di telefono a Telegram. Cioè, per cui, cioè... Però non lo vedo, non lo vedo. Comunque, so esattamente quello che dicono. C'hanno tre campi di azione, aborto, droghe, cioè droghe, sostanze, e il gender. E su questa cosa del gender nelle scuole, sulla libertà educativa dei genitori, che vuol dire sostanzialmente sul paraocchi messo da un certo tipo di genitori ai figli e alle figlie di tutte le persone, no? Fanno fuoco e fiamme, escono con un post al giorno, ragazzi, cioè c'hanno i soldi, c'hanno un'equipe che sta sempre lì, un'equipe di gente, cioè non nei primi venuti, è gente che sono degli stronzi, però lavorano bene, perché prendono sostanzialmente, ribaltano, fanno il lavoro che hanno sempre fatto i fasci, cioè ribaltano le parole d'ordine che si utilizzano a sinistra per dire esattamente il contrario. Però la battaglia è su quello, no? Ridurre al minimo le narrazioni possibili e dire che ce n'è una sola, è quella loro, quella che gli piace a loro, che però è una narrazione che è funzionale al mantenimento del patriarcato, dell'etero cis patriarcato, di certi privilegi di classe e di certi privilegi. Ma quanti di iscritti ha al canale Telegram di Provita? Meno di voi. Vabbè. 3300. Ah, oh, temevo di più. Temevo di più. No, perché invece i canali cospirazionisti a cui sono iscritto io hanno tipo 35.000. Però ha solo un anno. No, il canale di Telegram di Previta può solo ancora un anno. Crescere. Può ancora crescere. Speriamo, speriamo di no. Speriamo di no. Quindi stare nel margine spaventa, diciamo così. Che assolutamente. Mentre invece tu prima parlavi di Belux, hai citato molte volte Belux proprio anche in relazione al margine, che margine. Quando pensiamo al margine abbiamo sempre una percezione di una zona buia, di una zona d'ombra, cerchiamo di non arrivare al margine, ci teniamo lontano dal margine, mentre invece, come tu riporti ovviamente ispirandoti a Belux, il margine è proprio invece il luogo elettivo dell'immaginazione, è il luogo elettivo della visione. Cosa possiamo dire? Chiedo anche a Roberto su immaginazione, visione e margine. Dai margini si capisce molto di più che dal centro, di qualunque cosa, di qualunque fenomeno, di qualunque zona geografica, di qualunque composizione sociale, dal margine si capisce, perché dal centro non si vede bene, dal centro non si vede bene. E non si capisce soprattutto di cosa sia al centro, dai margini vedi qualcosa. E questa è una poetica che anche noi come Wuming portiamo avanti da tempo, e la collana in fondo è anche questo, no? Dai margini dei generi. E, per dire, si capisce molto di più il paese dalle sue zone di confine che da Roma. Da Roma, anzi, oso dire che si fa una fatica boia a capire il paese. Molti romani non vanno mai al di là del grande raccordo anulare e pensano che il resto del paese ci si comporti come a Roma. Non cambiano quartiere a Roma. Non cambiano quartiere. No, ma poi questo anche per dire, non so, cioè, vuol dire anche anche la un po' il valle siamo così o no? Ma no, perché in realtà anche grazie alla sedimentazione della lotta notava eccetera eccetera, secondo me dalla Valsusa si capiscono meglio le cose che da Roma, che dal Parlamento. In effetti siamo vale, ma siamo sul confine, ma siamo... infatti è una zona di confine, e la lotta è nata proprio su una tematica di confine, di frontiera, appunto, perché cioè, è iniziata contestando l'alta velocità Torino-Lione, una cosa transfrontaliera, e questa cosa è importante secondo me. E la valle ha delle caratteristiche peculiari dovute proprio al suo fatto di essere una zona cioè di passaggio, di transizione, di comunicazione anche con la Francia e tutto quanto storicamente, no? Di essere lungo dei percorsi storici che attraversavano dei confini, di aver vissuto dei cambiamenti di confine continui eccetera, e io mi sono molto occupato del confine orientale d'Italia, della zona di Trieste eccetera. Da lì si capisce ad esempio tutta la storia del fascismo molto meglio che dal centro del paese. Quindi il margine in tutti i sensi, geografico, storico, sociale, culturale, percettivo. Dico sempre, Bruce Lee quando dava le sue lezioni di arti marziali, il suo metodo, il Jeet Kune Do, diceva sempre di allenare la visione periferica e di vedere le cose con la coda dell'occhio. Quindi uno dei suoi esercizi non implicava combattimenti o mosse eccetera, ma diceva: adesso tu guardi dritto e descrivi esattamente cosa vedi nelle code degli occhi, no? Quindi allenarti a capire che cosa vedi qua, no, non frontale, ed è una cosa che cerchiamo di mettere in pratica un po' tutti noi a livello di, diciamo, Quinto Tipo, Allegre, Wuming Foundation e tutto quanto, e che nutre l'ibridazione dei testi di questa collana, a cominciare da questo di filo che stiamo, questo allenare la visione, no? È una cosa, no? Il lavoro sullo sguardo, sulla visione, filo fa delle operazioni molto interessanti su questo, no? Ad esempio resuscita un genere letterario dell'antichità classica che è l'ekphrasis, no? L'ekphrasis era un genere letterario tipico di quando non esisteva possibilità di riprodurre le opere d'arte. Quindi se tu volevi vedere, diciamo così, una statua importante, ma non vivevi nella città dove c'era questa statua e non avevi modo di vederla, c'era qualcuno che te la descriveva minuziosamente, in una maniera talmente dettagliata che tu, leggendo, te la immaginavi tutta dettaglio per dettaglio, e ekphrasis poi vuol dire descrizione, no? Ed era proprio un genere letterario, c'era chi scriveva le descrizioni delle opere d'arte. E Filo ricorre all'ekphrasis in una maniera deviante, molto interessante, perché ci descrive minuziosamente dei filmati che non sono mai stati girati. Cioè, ad esempio, racconta la propria infanzia immaginandola come un film in bianco e nero con un montaggio di scene, e commenta dicendo: ecco, qui si vede mio padre che la sera della vittoria ai mondiali dell'Italia dell'82 festeggia, quella cosina di 4 anni lì a fianco sono io, e c'è tutto un percorso, no, di formazione che viene raccontato come ekphrasis di un film che però non c'è. Lo fa anche con un musical inesistente, ancora prima, no? Proprio all'inizio del libro, dice: se questa fosse la scena di un musical sarebbe così, e poi la descrive minuziosamente, no? Questo è un modo di allenare visione. Il nostro sguardo, è un modo di lavorare sulla visione, sulla percezione, che nutre un'ibridazione testuale continua. Quando poi ci ha detto che noi dobbiamo vedere questo libro anche ogni tanto come una sorta di musical, come una sorta di musical, no? Come se stessimo guardando un film, quando arrivano le canzoni che interrompono continuamente il testo in prosa, quando arrivano le canzoni, noi le abbiamo già introiettate come le canzoni di quel musical che questo libro in fondo è. La cosa interessante è che è un musical che ha delle parti di saggistica, di teoria critica, che è cosa che un musical normalmente non ha. Quindi ha portato veramente l'ibridazione e il lavoro sui margini, no? Si pone al margine di ciascun genere e da lì lo perverte, lo deprava, lo deboscia, diciamo così, no? E il risultato è un libro che tra l'altro a tratti è anche molto buffo, perché poi va ricordato anche che noi adesso stiamo parlando di argomenti che per le persone che vivono quelle condizioni sono spesso tragiche. Appunto, a me colpisce molto l'episodio, anche voi vi dovete tagliare il cazzo, perché lì veramente ha ragione Filo, fa vedere la violenza che è stata esercitata, la violenza della normativa che è stata esercitata sui corpi di generazioni di persone trans in Italia, che per essere persone trans dovevano appunto mutilarsi, no? Quindi stiamo parlando di esperienze tragiche, stiamo parlando di episodi anche di depressione, stiamo parlando così, però c'è un senso di humor continuo, no? Anche nel sapere che non è l'ironia disincantata, fredda, no, è un humor empatico, partecipato, che ispira anche delle soluzioni narrative molto belle. Non abbiamo ancora parlato del fatto che questo libro cita espressamente il Macbeth con insomma quattro streghe trans, quattro persone, tre, perché la quarta poi è l'ospite, la quarta è l'ospite, ovviamente, no? Ci sono tre streghe trans che ogni tanto commentano il libro nel suo farsi, no? Commentano, sono loro un po' la coscienza critica del libro che si rivolta contro l'autrice, dice: vabbè, ma qui, ma però dai, sta ciurlando del manico, dai, ma perché ci racconta questo invece di raccontare quell'altro, eccetera. E altri che invece dicono: no, invece fa bene a raccontare questo, perché entrano proprio nella materia viva del libro, contestano le scelte dell'autrice, e ad un certo punto poi viene sfondata la quarta parete, perché Filo viene praticamente accolta da queste tre persone trans che sono streghe. Come le potremmo definire? Perché streghe è al femminile, no? Come potremmo definire? Sono persone soprannaturali trans, ecco. Dedite alle arti magiche, persone dedite alle arti magiche. Dedite alle arti magiche, persone trans dedite alle arti magiche, di cui poi si scopre che hanno avuto una storia, no? Che loro stesse hanno delle ferite, si materializzano per quello, perché rappresentano delle ferite, delle persecuzioni subite, e accolgono Filo. Quindi c'è anche questo aspetto magico del libro, a un certo punto diventa racconto fantasy, racconto soprannaturale, però citando Shakespeare. È una continua mise en abîme, una continua sfida ai generi proprio letterari, e lavorando sempre sui margini di quei generi, no? Collocandosene proprio nell'estrema periferia, di modo da poterli guardare meglio e poi capire come sconvolgerne la struttura, come sconvolgere le aspettative di chi legge. Quindi tu stai leggendo appunto una parte molto saggistica di critica al DDL Zan, e poi all'improvviso ti ritrovi nel soprannaturale, nel fantastico, ed è questa la vera forza di questo libro, ecco. Aggiungo solo una cosa su questa cosa che stava dicendo Roberto, che questa ibridazione e anche l'espediente delle streghe è stata per me una cosa necessaria, e non è stato un espediente così tanto per provare a vedere, a fare una cosa. E la riflessione che sta alla base è questa: la letteratura in senso ampio, che parla di questioni trans, è o memoir, persone che raccontano la propria storia, oppure saggi teorici, spesso anche no, con un linguaggio esoterico, cioè per iniziati. Io volevo innanzitutto che fosse una... siccome era scritto sull'onda dell'urgenza, perché avevo necessità di raccontare cose che stavano avvenendo sulla mia pelle, che stanno avvenendo sulla pelle dei miei amici, delle mie amiche, delle persone che ho intorno, no? Sentivo l'urgenza di parlare di queste cose. Non volevo che fosse il solito memoir, non volevo che fosse neanche il saggio, che forse teorico, che probabilmente non so scrivere. Per cui ho cercato di mettere insieme le due cose e avevo bisogno, nel momento in cui, quando si fa autobiografia e fiction, nel senso, non c'è esattamente la verità, c'è la messa in scena di un personaggio che ha avuto delle vicende biografiche simili o uguali o parzialmente simili alla persona che scrive. Ci sono delle cose, no, quando leggi le biografie di altre persone, che dici vabbè, qua magari se la sta tirando un po' troppo, oppure dici questo è assolutamente gratuito, no? Io volevo che mettere a disposizione delle persone che mi leggevano il fatto che io mi stessi facendo quelle pippe, no, sulle cose che stavo scrivendo. L'hai esternalizzato. Esatto, no? Sto raccontando questa cosa perché voglio farmi bella, perché voglio fare la vittima, no? Tutte queste domande me le sto ponendo e attraverso il dialogo di queste persone trans dedicate alle arti magiche, attraverso il loro dialogo cerco di rendere noto qual è il ragionamento che mi fa sentire necessario raccontare quell'episodio. Ho cercato di mettere non la mia vita, ma gli episodi che sono funzionali a fare un ragionamento politico. Ci sono incastonate dentro questo libro le storie di persone amiche che mi hanno regalato le loro esperienze, mi hanno permesso di, no, di raccontare schegge delle loro esistenze, perché più di episodi avvenuti a me, quelle cose che loro mi hanno confidato perché siamo amici, quelle storie lì mi erano utili a raccontare determinati passaggi. Per cui viene percepito, e lo è anche parzialmente, come un libro autobiografico. Io dico che ci ho messo pezzi della mia vita perché sull'onda dell'urgenza era quello il materiale più abbondante che avevo a mia disposizione, e l'altra cosa che avevo in abbondanza, abbastanza, sono le mie letture. Per cui c'è un sacco di libri campionati. È anche una autobiografia di una lettrice, perché c'è un continuo passaggio da un libro all'altro, e questo è molto bello. È anche una resoconto di vita urbana e suburbana tra Torino, Rivalta, Orbassano, La Valle, eccetera eccetera, nel corso degli anni, dagli anni 90 a oggi. È un'esplorazione di alcune sottoculture digitali legate a queste tematiche, sottoculture in senso sociologico, non in senso dispregiativo, ma sotto insiemi della cultura. Quindi c'è la cultura e i suoi sottoinsiemi, e ci sono alcune sottoculture digitali che qui vengono esplorate, come quella dei crossdresser, eccetera, con le loro luci e molte ombre che metti insomma in pagina, eccetera. È un'autobiografia musicale, c'è tantissima musica, c'è l'hardcore punk torinese, che è una scuola proprio, è un po' come la scuola genovese dei cantautori, c'è la scuola dell'hardcore punk torinese, c'è la musica italiana è fatta di scuole, proprio nel senso di una volta le botteghe artigiane, la bottega artigiana dell'hardcore punk ha avuto anche filo come garzona di bottega. Nelle sue due anime, quella depressiva e quella più depressiva. Esatto, esatto. Sì, perché non è una scena di Allegroni, ma neanche la scuola genovese dei cantautori, devo dire che lo erano. Cioè, Tenco, Paoli, Lausi, no, Lausi qualche cosa un po' più. Così. E quindi c'è anche tutto questo nel libro. Uno potrebbe pensare, appunto, potrebbe pensare al memoir, al solito, diciamo così, alcuni sono anche molto belli, però diciamo è una formula già più volte proposta, memoir di persone trans, oppure potrebbe pensare al saggio di teoria critica, e invece no, è un libro che ti esplode tra le mani, ti esplode sotto gli occhi, va continuamente in mille direzioni, ed è questa, la, è questa la sua possenza. È proprio così. Ne leggiamo un altro pezzettino, Antonietta, che dici? Intanto di sicuro qualcosa vi starà girando nella testa, e quindi se poi volete intervenire o fare qualche domanda. Miriam, tra poco comincia la lezione. Per favore finisci i compiti. Non lo so fare. Cos'è? Gli aggettivi qualificativi. Vabbè, ma ieri sei stata bravissima. Che problemi puoi avere con gli aggettivi? Mi aiuti? Arrivo. La maestra propone di esercitarsi sugli aggettivi qualificativi con una scheda sul papà. La figura di un uomo un pochino panciuto, con un'impeccabile camicia bianca, ben sistemata nei pantaloni, occupa gran parte del foglio. Si tratta chiaramente di un uomo bianco e se dovessi indovinare che mestiere fa, direi senza dubbio impiegato. Ecco, l'archetipo del padre. Miriam, però, è chiamata a scegliere fra un certo numero di aggettivi quali si addicano meglio al suo papà. Esperto, spiritoso, allegro, simpatico, pensieroso. In fondo alla scheda deve rispondere a delle domande circa aspetto e abbigliamento. Cosa ti mette in difficoltà? Silenzio. E perché non somiglio al tizio della scheda? Silenzio. Ma questa volta mi guarda. Se vuoi, puoi inventare un padre di fantasia, come in quel catalogo dei genitori che abbiamo letto l'anno scorso, oppure mettere al femminile gli aggettivi, spiritosa, pensierosa. Puoi sentirti libera di farlo nella maniera che ti viene meglio. E se la maestra mi sgrida? Non credo. In ogni caso, glielo spieghiamo io e mamma che il tuo papà non è così. Io non lo faccio. Sta per mettere via il foglio, poi prende la penna blu e scrive poche parole sotto l'ultima domanda. A mio papà piace mettere le gonne e le sciarpe. Riduci i posti a tavola, sedie non ce n'è più, se inclini un po' la seggiola, entrarci anche ancora un po' di più. Solo i presenti esistono, noi siamo la compagnia. Per noi c'è il companatico, il resto è carestia. Quasi da cantarla. Esatto, è un esempio del fatto che questo libro è un musical. Esatto, ecco. Quindi abbiamo sicuramente avete riconosciuto. Non abbiamo mandato una copia a Johnny Dorelli, avremmo dovuto forse. Non è morto. No, non è morto. No, Dorelli. Sono specializzata nel far morire persone che non sono ancora vive. Credo quando il libro è uscito era vivo, poi non so se è morto nel frattempo, no, ma credo sia vivo. Binarelli è morto, sì, ma un mese fa, tipo, sì, o due mesi fa, insomma. Allora, abbiamo scelto questo pezzettino perché il libro è dedicato a Miriam, che è tua figlia. Vorrei parlare con te di una cosa che hai scritto riguardo all'essere genitore, ed è sul concetto di responsabilità, perché tu a un certo punto scrivi la responsabilità di essere padre, responsabilità come abilità a rispondere di fronte a un figlio, e questo credo che sia una cosa che coinvolge tutti, almeno io quando ero incinta di mia figlia penso di non aver dormito tantissime notti pensando alla responsabilità, no? che mi sarebbe toccata, e anche pensando a tutti quei ruoli di cui parlavo prima, in cui magari non mi sento proprio centrata, e se ci dici qualcosa su questa cosa che hai detto della responsabilità. Questo è difficile. Domandona. Vabbè, quell'accezione di responsabilità mi ci ha fatto pensare un libro di Donna Haraway, che lei proprio spezza la parola in responsabilità, e per cui no, ti invita a pensare che cosa, di che cosa si tratta, no? Anche dal punto di vista etimologico. Secondo me, al di là dell'essere genitore o no, la questione è che come esseri viventi, come esseri umani, dobbiamo prendere in considerazione le nostre responsabilità, cioè la maniera in cui rispondiamo alle sollecitazioni continue del mondo intorno a noi, delle altre persone, degli altri esseri viventi intorno a noi. Da questo punto di vista, no, diventa chiaro che tutto è politico, ogni cosa è politica, e per cui, no, nel momento in cui si dice, ah, di certe cose non bisogna parlare alle persone piccole perché le confondi, no? Si sta dando un determinato tipo di visione politica del mondo, no? Appunto, limita le scelte, limita le possibilità. Io sono genitore non per caso, cioè nel senso non è stato un incidente come talvolta nella vita capita, nel senso che io e la mamma di Miriam eravamo consapevoli, non pienamente consapevoli, però eravamo convinte che volevamo diventare genitori di una persona piccola e boh, questa di quelle solite banalità. La genitorialità comunque ha cambiato tante prospettive in me, mi ha fatto, no, prendere in considerazione cose che non stavo prendendo in considerazione, e anche, no, una parte della mia decisione di fare coming out come persona trans sta nel fatto che sono diventata genitore, perché a un certo punto mi sono chiesta: ma che cosa insegno io a questa creatura? Insegno che bisogna stare nascosti, che bisogna, no, vivere di meno per sopravvivere. Forse preferisco, no, passare in maniera incarnata, no, il messaggio che possiamo essere coraggiose, possiamo, no, che poi essere coraggiosi vuol dire essere insieme alle altre persone. Nel momento in cui ho deciso, ho pensato che potevo rivelarmi come persona trans, la cosa che ho fatto, e questo è uno dei lasciti o degli insegnamenti del movimento NOTAV, è stato cercare alleanze, cercare persone con cui parlare. E per cui, boh, si è coraggiosi e coraggiose insieme alle altre persone. E mi è sembrato che Miriam mi portasse in dono questa consapevolezza, che potessi essere coraggiosa e per cui mi dovessi mettere a cercare altre persone. E boh, Quindi adesso, visto che hai citato il movimento NOTAV, che è un altro filo che attraversa questo libro, perché più volte dici che nella lotta NOTAV è proprio in mezzo alle persone, in mezzo ai luoghi della lotta NOTAV, hai trovato insomma il coraggio, hai trovato una forza. Perché la militanza aiuta, e riporti Sitrav, che è un racconto, testimonianza, che è uscito appunto sul blog di Women Foundation, su JAP, e che nel 2018. Cosa diciamo fra militanza e Sitrav e Notav? Sì, beh, era un tentativo di dare una dimensione politica al mio coming out, e anche quello non era cortissimo, è dovuto uscire in due puntate perché stava per Però 80.000 nei bar. limiti dell'accettabile. Esatto. Vabbè, io la piccola premessa è che sono stata una persona, cioè sono una persona che per lungo tempo si è tenuta dentro questa roba un po' in segreto, no? Che di non essere una persona etero cisgender. Per cui una persona che vive per molti anni, per decenni, così, qualche danno cerebrale se lo procura inevitabilmente e diciamo l'ottimismo non diventa il pilastro su cui fonda la sua vita e poi in più insomma andavo a sentire i concerti e suonavo nelle band punk torinesi, per cui depressione al più che depressione, tanto cinismo, no? Nel senso, sono sempre stata così, una persona che va alle manifestazioni, che crede in determinate cose, ma crede con un po' di cinismo, in maniera sconsolata, in maniera Sconfittista. sconfittista. E fino a quando non mi sono inguaiata col movimento No Dav, quella è stata la mia cornice prevalente, no? Quella del vabbè, ma tanto alla fine vince Giorgia e non si può fare niente, no? Se lo vogliamo tradurre nel presente. E invece no, vince Giorgia e sarà l'occasione per fare mille cose se abbiamo la capacità di organizzarci e di immaginarcele, no? E dai margini ognuno in cui ci troviamo trovare delle visioni che ci guidano a delle azioni. Quindi quella era la mia cornice. All'interno del movimento No Tav, ho trovato che non voglio neanche fare quella che dice nel movimento No Tav è tutto perfetto, perché non è vero e ci sono delle dinamiche tossiche persino nel movimento No Tav, perché il movimento No Tav fa parte di questa società che è piena di dinamiche tossiche. Dopodiché sicuramente è un'avanguardia sociale in cui succedono cose che non capitano altrove, dove si possono stringere delle relazioni su altri presupposti meno utilitaristici e dove no, si possono, cioè, mi fermo un passo prima della prospettiva politica di ciò che ha compiuto in questi oltre 30 anni il movimento No Tav. Mi fermo proprio all'aspetto relazionale, conviviale, no? Antropologico, al mutamento che questa cosa ha compiuto nella valle e nelle persone che si sono fatte coinvolgere. E io mi sono sentita abbondantemente trasformata e anche adesso che diciamo il mio attivismo prevalente è transfemminista perché il tempo ragazzi è sempre quello e per cui bisogna fare delle scelte, però sento di portarmi dietro tutta una serie di strumenti, di attitudini, di consapevolezze che invece mi vengono da quell'esperienza. Che è cioè, non dico che sia l'unico movimento che ti permetta di fare quelle cose, però è il movimento che ho attraversato io, no? È stata appunto, andavo alle manifestazioni di tutte le cose di noi zecche, però non mi ero mai impegnata, non mi ero mai presa un impegno di dire tutti i martedì sera vado a fare assemblea col comitato No Tav. Quella è stata la prima volta che mi sono infilata in una cosa del genere e scopri, no, che puoi entrare in relazione con persone di cui non pensavi di poter avere stima, cioè nel senso, no, quando ti trovi a condividere momenti estremamente significativi della tua esistenza con persone che magari vengono dal mondo cattolico, ci sono dei cattolici bravi, regà. E noi non lo sappiamo. Anche nel movimento No Anche Tav, nel movimento No soprattutto. Tav. Io, no, per quella che era la mia formazione, dicevo, figurati, cioè, preti, cioè, uno dei miei no il nonno materno con cui sono cresciuta, cioè per lui, come per la maggior parte dei siciliani, il prete era un incrocio fra l'essere umano e il cane, cioè una cosa no, non tanto buona. E però no, avere a che fare con determinate persone che hanno un background completamente diverso dal mio mi ha dato una dimensione che è veramente politica, nel senso di venire in contatto con la complessità della società. e scoprire che si possono fare delle cose con persone che apparentemente oppure anche realmente la pensano in maniera molto diversa da te, che però si possono fare delle cose, no? Si può discutere, si può trovare la linea di consenso e che ci permette di agire insieme d'accordo. Quindi diciamo che all'interno del movimento si incarna quello che dicevamo prima, di nuovo un luogo di contaminazione di generi, di persone che vivono in maniera totalmente diversa, e quindi in questo senso rientra anche nei discorsi che abbiamo Assolutamente, fatto. se mi devo mettere un'etichetta con sempre maggior fatica è anarchica, ma non è un anarchismo da quando conosco il movimento, stiamo fra di noi, nei nostri tuguri e ce la contiamo, ma è un anarchismo che desidera relazioni anarchiche e non persone anarchiche. Me ne frega un cazzo di un mondo di anarchici, me ne frega invece di relazioni antigerarchiche, di orizzontalità e di curiosità scoperta, azioni che si possono costruire insieme a partire dalla praticità dei problemi che dobbiamo affrontare. Boh, per cui per me quello è stato un grande Calderone insegnamento dietro e che mi ha anche detto, vabbè, te ne puoi fottere, puoi essere coraggiosa perché in qualche modo ci sono delle persone che in qualche modo ti possono sostenere e ti possono stare intorno. Allora, come avete capito, questo libro è uno scrigno, è una scatola con delle cose preziose dentro e ogni pagina ci rivela una cosa nuova. Se qualcuno vuole intervenire, questo è il momento. Avrei una domanda, in realtà voleva farla Simona, ma è dovuta correre a casa da nostra figlia. Noi abbiamo una figlia di 15 anni e lei ci riporta tantissimo che adesso tra i ragazzi molti si definiscono pansessuali, asessuali, sono tutta una marea di sigle che non ricordo neanche. Tu che cosa ci vedi in questo? Cioè, un ampliamento di quelle narrazioni di cui effettivamente c'è bisogno, oppure una moda un po' superficiale o comunque un bisogno di catalogarsi, di etichettarsi, di distinguersi? Come la vedi tu questo? In tutti i In modi, tutti i cioè modi? nel senso che da una parte spesso fra le persone etero e cisgender viene fuori questa frase, ma che bisogno c'è di tutte queste sigle? Certo, nel momento in cui viene assunta una normalità che è quella dominante e a cui vengono assegnati dei privilegi, tutto il resto perché dovrebbe esistere, no? E per cui no, sento la necessità, sento come viva, come importante la necessità delle persone di dire no, ma io sono un'altra cosa. Che può voler dire semplicemente io non mi comporto così nella mia vita. E per cui mi sembra una cosa estremamente legittima e che se non si limita a essere una targhetta, ma a essere un modo di relazionarsi e di stare alla luce del sole, per me è assolutamente legittima e ben venga. Dopodiché, sì, viviamo in un mondo in cui si fa merce di qualsiasi cosa insomma, il mercato ha bisogno, vive anche delle sue nicchie, non soltanto del suo corso mainstream, e anzi, forse sommando tutte le La nicchie di coda lunga, la mercato, famosa coda lunga, esatto, sì. si ha un introito, no, per il mercato, per il capitale equivalente al mainstream. E per cui va curata anche quella roba lì, e per cui sì, c'è quella maniera superficiale di vendere esperienze di vita, e per cui boh, sì, ci può essere anche quella componente lì. Dopodiché, a un certo punto, non ti dà nessun privilegio reale definirti in una maniera che non è prevista per legge. Per cui io penso che le persone giovani che stanno facendo questa cosa stanno facendo delle valutazioni sul loro presente, e che tutti e tutte noi possiamo cambiare il nostro modo di stare nel corso della vita, oppure mantenere sempre quello, e va bene in ogni caso. E per cui, boh, ben venga. Aggiungo, il prossimo governo non farà molto pink washing, quindi questi ragazzi sono già eversivi. Esatto, esatto. Bene, allora possiamo chiudere questo bellissimo incontro. Se aggiungo solo una cosa, ne ho portate poche perché mi si è guastata la stampante, sono fatte super punk, però sono delle mini zine che ha fatto un collettivo di Roma che si chiama Guerriglia Transpoetica, come il collettivo di cui faccio parte io, è un collettivo di persone trans e alleate, che ha campionato in una... è una roba molto punk, cioè sia come operazione fare le fanzine, sia come diciamo realizzazione, perché l'ho fatta io in 5 minuti, però ha campionato alcune passaggi che a loro piacevano particolarmente di Senza Titolo di Viaggio, e li hanno raccolti, e niente, per cui sono qui a disposizione se vi piacciono. Un florileggio, diciamo. Esatto. Ok. Quindi, visto che tu sei la quarta strega, ti abbiamo nominato così stasera, ti chiediamo di farci un incantesimo. Con l'ukulele. E se vuoi ripercorrere l'incantesimo che propone alla fine del... No, però così è spoiler, ci ho pensato, è spoiler. Allora no, è spoiler. Allora decidi. Preferisco tu cantare una canzone. Sì. Ma prima ti è stata fatta una richiesta di una hit storica, sì. Non lo so se... l'incantesimo tu. Fammi vedere qua, la fanzine. Io non mi ricordo quasi niente a memoria nella mia vita, e... anche gli spettacoli che, cioè, tipo, domani a Firenze farò uno spettacolo che va in scena per la 41esima volta, io ancora non lo so a memoria, e per cui anche questa canzone che sto per fare probabilmente la cicco tutta perché non me la ricordo, ed è stata richiesta gentilmente poco prima che cominciasse questa presentazione. È una... una mia hit del 2011, diciamo. Non è mai andata su Radio Frejus, forse. Potremmo, ci possiamo lavorare se ci ed è una canzone d'amore. È una canzone d'amore Notav. Ed è una canzone... praticamente ho incontrato una persona, la chiameremo per comodità Michelle, in maniera che non sia esattamente chiaro se si, con la mia pronuncia non si capisce se è un uomo, una donna o qualcos'altro, Michelle, e mi sono innamorata di brutto, e si era praticamente sotto Natale, e le ho chiesto se potessimo passare le vacanze di Natale insieme, e questa persona mi ha detto sì, e io ero contentissima, e mi ha detto: Cortina, a me è sembrato un pochino fuori budget, fuori dal mio budget, e allora ho fatto una proposta alternativa di un Natale alternativo. Passalo con me questo Natale in Valclarea, che mi son presa al turno l'altra sera in assemblea. Magari, se va bene, avrà molto nevicato e noi limoneremo sotto a quel filo spinato. Oh oh oh. E passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me. Il presepe organizzato dai cristiani per la valle. Mi han detto porta su di paglia e fieno, se due balle. Si sta ancora scegliendo chi farà Gesù bambino. E gli farà anche loro un finanziere e un celerino. Oh oh oh. Passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me. Ci scambieremo i doni anche con i poliziotti. Non ci sono molte sorprese, loro han solo candelotti. Ma ci divertiremo e i nostri cuori gioiranno. Tra l'altro mi son presa anche il turno a Capodanno. Oh oh. Passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me questo Natale in Val Clarea. Passalo con me. Passalo con me il Ferragosto in Val Clarea. Ma che cazzo ci vai a fare anche quest'anno giù a Scalea? Anche Rimini e Riccione son diventate molto care. Tenti con la crisi, la direttiva è risparmiare. Ma se vieni su in Clarea ai favori dello Stato, ti danno vitto e alloggio alle vallette, tutto spesato. Oh oh oh. E passalo con me il Ferragosto in Val Clarea. Passala con me la candelora in Val Clarea. Passala con me la Pentecoste in Val Clarea. E passala con me. Grazie Anna Maria, grazie Roberto, grazie Antonietta, grazie a tutti voi. Grazie.